Allora, stiamo seguendo Rabbia anche fuori dal Teatro Valle Occupato in questa sua vita dopo. Raccontaci un po' di questa nuova tappa. E la 13ª edizione, come giustamente detto, avviene nello spazio occupato di spazio culturale dentro lo spazio occupato di Spin Time, l'ABSA via Santa Croce in Gerusalemme, ed è un po' la conseguenza di tutta una serie di sessioni che ci sono state durante l'occupazione del Teatro Valle, poi in altri spazi, non solo a Roma. Ed in particolare, forse il momento più interessante da ricordare di questa settimana sono venerdì, sabato e domenica sera, in cui finalmente vengono presentati dal vivo pubblicamente le scritture che sono state costruite nell'arco di tutte queste edizioni. Quindi ce ne sono due, con un cast di attori tra l'altro straordinario, alcuni anche internazionali dalla Danimarca, due, una alle 19 e una alle 21, un testo di Luca Franco intitolato Busunge e un testo di Gaia Grosso intitolato R5, sono venerdì sera. C'è un altro testo sabato sera e poi c'è quella che è sempre un po' la giornata conclusiva del festival, del processo di Rabbia, che è l'orgia delle scritture, in cui vengono presentate come in un paesaggio tutte quelle scritture che stanno emergendo, sono ancora fragili ma si stanno esponendo e poi magari arriveranno a un ciclo conclusivo e verranno presentate in forma di reading come le altre. Insomma, le serate interessanti, i momenti interessanti, i momenti culmine sono venerdì, sabato e domenica. Sì. Allora, Christian, per chi ci ascolta, con quali caratteristiche era nata Rabbia e come si sta evolvendo edizione dopo edizione? Beh, il titolo dice abbastanza. Sì. Ci sembrava, come comunità di artisti, di persone, insomma, ci sembrava di non trovare spazio, ci sembrava di soffocare, e quindi un sentimento di rabbia ha portato in realtà, invece che a contrastare, a trovare uno spazio dove costruire, allargare. Quindi è veramente un luogo sensibile dove si continuano ad accogliere diverse istanze, fragilità, in qualche modo ci si dedica molto alla possibilità di costruire bellezza nonostante tutto. E come vedi, siamo alla 13ª edizione, il progetto affronta sempre tutte le precarietà del caso, non è un progetto facilmente digeribile per un paese come il nostro in questo momento, ciononostante continua a esistere, più che resistere, e si apre veramente a delle voci contemporanee, insomma, sia dal punto di vista della performance, dell'interpretazione, che dal punto di vista degli autori, degli autrici, scrittrici e scrittori, troviamo delle voci potenti, interessanti, coraggiose. Questo ha voluto essere un luogo così fin dall'inizio, un luogo dove poter dare spazio e magari cercare di consolidare quelle voci che altrimenti finirebbero al cesso, quindi per essere troppo esclusivi. Sì. Senti, Christian, questo è un vostro momento di visibilità, e questi giorni allo Spin Time, dal 24 al 30, esatto. Con la parte workshop, e volevo chiederti anche se durante l'anno vi siete dati anche una continuità, oltre a questo momento grande di visibilità. Ma guarda, l'ultima edizione è stata sempre a Roma a luglio, quella precedente pochi mesi prima. Sì. Le continuità avvengono proprio dal fatto che avvengono sessioni ogni 2, 3, 4 mesi, certo. Nella stessa città per il momento. Tra una sessione e l'altra non vi è una continuità, perché ovviamente paghiamo anche noi, come tutti gli altri processi artistici estremamente interessanti e incompiuti nati durante l'occupazione, paghiamo lo scotto anche di non aver più trovato in qualche modo un luogo che non significa solo un luogo fisico, ma proprio un contesto, una comunità che poteva dare continuità a questo progetto. Forse questo progetto artistico cerca in qualche modo di resistere a questo, diciamo, questo momento, no? Questa fine di questo processo che è avvenuto, magari per tenere vive certe istanze che non sono solo artistiche ma anche politiche, anche perché io stesso mi chiedo perché sopravvive nonostante tutto questo progetto continua ad accogliere così tante istanze, così tante persone. Quindi una reale comunità, una reale continuità non è possibile tra sessione e sessione, ma il fatto già che si lavori per farla esistere e che poi essa effettivamente esista, è sicuramente un segno. Quindi già in questo 2016 siamo al terzo appuntamento, da quanto ho capito. Dio, adesso non vorrei sbagliare, però una è stata a luglio e una, non ricordo male, dovrebbe essere a cavallo, sì. Sì. Tra 2015 e 2016. Quindi ci siamo. Sì. Senti Christian, i riferimenti per saperne di più sia su questo nuovo appuntamento dal 24 al 30, sia seguire la vostra attività in qualche modo in rete, dove si può cercare? Allora adesso ti do i riferimenti in rete, ovviamente l'hashtag è Rabbia13, estremamente semplice. Lo spazio fisico, come è sempre stato per questo progetto, è uno spazio aperto, spalancato, libero, e quindi a via Santa Croce di Gerusalemme 55, dalla mattina alla sera alla notte, sempre aperto, si può venire a conoscerlo, a trovarlo, eccetera. Oltre agli appuntamenti che dicevo prima, che sono appuntamenti di spettacolo, che sono venerdì, sabato e domenica. In rete la possibilità più semplice è noi abbiamo un profilo Facebook, Rabbia, dove si trovano indicazioni molto precise, e adesso io a memoria non ricordo, ma vi è anche una email, non so se nel comunicato stampa tu hai possibilità di estrarla da lì, e un numero di telefono. Se l'hai sott'occhio possiamo darlo, io a memoria non ricordo. No, però insomma comunque la pagina Facebook. Pagina Facebook, sì. Riporta anche tutti i contatti, esatto, numero, esatto. E email, eccetera. Benissimo. Allora, ricordiamolo, allo Spin Time Labs dal 24 al 30, Rabbia 13. Un abbraccio, un in bocca al lupo, e ci si vede lì. Grazie, anche voi, certo. Ciao Christian, ciao. Ciao.